o per i punti vendita in cui lo trovi su purina1.it. Dai, passa il telecomando. No, è uno di quei documentari su muffloni, no. Oh, anche i tuoi film d'amore essere noiosi. Sì, ma io almeno non mi addormento sul divano. Ma è questo divano letto, è così comodo. Il problema non è il divano, sei tu, mufflone. Se siete soci IKEA Family, dal 1 al 30 novembre, con una spesa minima di 200 euro sui divani letto, avrete un buon acquisto di 20 euro spendibile a dicembre 2010. IKEA.it. Cera di Cupra dà voce ai pensieri delle donne. Talvolta mi rendo conto di essere più sensibile alla felicità degli animali che di certi uomini. Io adoro scrivere lettere. Oggi il mio lato sensibile è in sciopero. Cera di Cupra presenta Pelli Sensibili, la nuova crema specifica per quando la tua pelle è sensibile, come te. Tutto nelle tue mani. Tecnologia e piacere di guida a portata di dita. Nuova Punto My Life. Finiture piano black. Motori Euro 5. Radio CD MP3. Climatizzatore. Sistema start and stop. ESP e Blue Emmi Tom Tom. Tutto di serie. Nuova Punto My Life a 9.900 euro con la trasparenza del prezzo vero Fiat. Iniziativa valida con il contributo dei concessionari Fiat in caso di rottamazione fino al 30 novembre 2010. Ti aspettiamo anche sabato 13 e domenica 14. Nuova Punto My Life. High tech. Human touch. Ciao. Adipesina Forte Azione Urto con Fucoxantina. Adipesina Forte Azione Urto, la soluzione rapida, immediata, efficace e sicura che spazza via i chili di troppo. Adipesina Forte Azione Urto, da Dieta Linea, in farmacia e nelle migliori erboristerie. Corri da Troni dal 4 novembre, 10 giorni di sottocosto da fuori classe, come la fotocamera digitale Samsung con doppio display LCD per autoscatti facilissimi a soli 99 euro. Informazioni nei punti vendita che partecipano all'iniziativa. Troni, non ci sono paragoni. Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc. And now it's more than all his cards you want to take. Emerald, A Night Like This. Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company. All my life and the hereafter, I've never seen one like you. You're a knife, sharp and deadly, and it's me that you're cut into. But I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. And she's playing with my mind. And I don't mind, I don't mind. No, I don't mind, I don't mind. No, I don't mind, I don't mind. No, I don't mind, I don't mind. Oh. Qui a Radio Company, 17:47, ancora buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana da Stefano Ferrari. E da Loredana Forleo, che vorrebbe tanto raccontarvi quello che fa Stefano Ferrari quando non siamo in onda. Anche no. Posso? Sì, che poi non è una cosa scandalosa, nel senso non è che no, mi scacolo. È una bella cosa, così ascoltiamo anche. Non è che faccio gli sputi verdi come i camionisti, cioè voglio dire. È una cosa bella che noi ascoltiamo quello che fai, che produci durante fine settimana, insomma. Quando vado in bagno. È lavoro. No, vabbè, stavo ascoltando una roba al computer. Non ti vergognare, dillo quello. Niente che fai. Sì, quello che faccio nel weekend. Mi trovate vicino alla fiera, vendo il mio corpo. Adesso invece regaliamo, non vendiamo nulla, ma regaliamo il nostro Company Watch White and Grey, l'orologio marchiato Radio Company, che regaliamo scegliendo noi quali sono le province che giocano giorno dopo giorno. Tra poco vi diremo quali sono le province, e se uno ha un indirizzo in una delle province che dirò, che cosa deve fare? Deve semplicemente inviare un messaggio al 333-2688-688 con la sigla della provincia, insomma, della vostra città. Sì, basta solo che arriva, poi basta solo quello, infatti non serve che scriviate altro, anche perché vince soltanto chi arriva prima di tutti, quindi non è che dovete scrivere il vostro nome, sono della provincia di, altrimenti perdete del tempo prezioso che vi serve eventualmente per provare a vincere il Company Watch. Vediamo un po' quali sono le province di oggi. Radio Company ti chiama. Padova, Pordenone, Vicenza. Radio Company ti chiama. Ti chiama. Quando vuole fa paura, ma ti abbraccia.

Diciamo che ho emesso del fiato. E invece non autorizzato. Non avevo le cuffie, ho sentito tutto questo, esatto, bel suono. Ecco, esattamente. Esatto, identico. Maurizio, ecco, qual è la provincia che vince? Vicenza. Viva Vicenza, Vicenza, in questo caso che ti porti a casa, ovviamente ti arriverà il Company Watch White and Grey. Senti il gatto, grazie, le fuse. Maurizio, riceverai molto presto l'orologio e ti auguro una buona serata. Grazie, posso fare un saluto? Certamente, sì? Vai. Saluto la moglie e i bambini, la moglie Monica e i bambini Dario e Erika. Benissimo. Bene, ci associamo anche noi ai saluti. Ciao Maurizio. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Poi togliere sta... basta. Che Santino sa che c'è questa storia di gatti. Va bene, ci sentiamo tra poco con un successo del passato. E uno del futuro. Radio Company ti chiama. Spot. Avrei bisogno di una vacanza. Affari tuoi. Avrei bisogno di divertimento. Affari tuoi. Ma sai solo dire affari tuoi? Non hai capito. Al parco di Campo San Piero arriva Affari Tuoi Tour. Dall'8 al 21 novembre giochi e vinci fantastici premi. E domenica 21 tanto shopping e la finale di Affari Tuoi Tour presentata da Andrea Gresti delle Iene. Tanti giorni per tentare la fortuna con i pacchi. Primo premio. Una fantastica vacanza all inclusive a Sharm el Sheikh. In collaborazione con Eden Viaggi. Al parco di Campo San Piero in via Straelle di Rustega 15. Dove shopping è vanno braccetto. Would you go to bed with me? Dopo il grande successo del primo spettacolo, il circo ritorna a Treviso. Mercoledì 10 novembre, The Italian Circus, alla discoteca Amami. Tutto il carrozzone vi aspetta dalle 21.30 per l'aperitivo circense, il connubio cena teatro e la grande musica house dagli anni 80 ad oggi del disc jockey and DJ. Mercoledì 10 novembre, The Italian Circus, amamitreviso.it. 393 93 53 880. Ah, è arrivata la consegna. Ciao. Il lavoro è più leggero quando hai un van su cui contare. Nuovo Mercedes-Benz Vito, l'affidabilità di cui vantarsi. Carraro, concessionaria Mercedes-Benz, veicoli commerciali. Infoline 04 22 52 11. Mobilifici Rampazzo Severino lancia la più grande iniziativa rivolta a chi deve arredare casa. Solo per pochi giorni, tutta la collezione di cucine e camere, anche su misura, scontata fino a metà prezzo. Mobilifici Rampazzo Severino, a Campodarsego, Piave di Sacco, Rovigo. Domenica aperto. Esiste al mondo un posto dove sono stati vinti più di 171 milioni di euro? Oh yes. Vinti alle slot più di 171 milioni da gennaio a oggi? Oh yes. 171 milioni in 10 mesi? Oh yes. E questo posto è in Europa? Oh yes. In Italia? Oh yes. E dove sarebbe? Ma al Casinò di Venezia. A Venezia? Oh yes. Certo, a Venezia, nelle sedi del Casinò di Canoghera e di Cavendramin. 171 milioni? Oh yes. Per info casinovenezia.it. Oggi ho preparato per voi un menù davvero speciale. Come antipasto servirò calici in cristallo finissimo. Ottimo, è uno dei miei piatti preferiti. Poi come primo avevo pensato a un'elegante caraffa molto raffinata appena arrivata. Perfetto. Il tutto accompagnato da un delizioso decanter. Tutto RCR naturalmente. Quando fai la spesa all'Esselunga la tavola è tutta un'altra cosa. Fino al 15 gennaio 2011 in tutti i supermercati Esselunga, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola riceverete un bollino per iniziare l'esclusiva raccolta di cristalli RCR. Regolamento nei punti vendita. Quando penso solo a me, penso allo shopping. Adesso so, e lo sai anche tu, dove poter scegliere. Cliché Fashion Outlet. Abbigliamento, accessori, occhiali, spazio uomo e donna. Cliché Fashion Outlet. Via Galileo Galilei 2B, Caselle di Selvazzano, Padova. In tutti i negozi CAD, bellezza e igiene, speciale maxi risparmio. Tanti prodotti in promozione. CAD è sempre vicino a te. CAD è il meglio che c'è. Company, Radio Company. Su Radio Company, un successo del passato ed uno del futuro. Insieme per una grande emozione. Places to find a piece of something to call my home. Touch and Clothes qui a Radio Company. Prima c'era anche All Saints Pure Assurance per un successo del passato e uno del futuro. Adesso invece sono le 18:04 minuti. Abbiamo sfanculato sentito per 10 minuti. Diamo il benvenuto a chi? Al Mix to Mix. Radio Company Time. Radio Company Mix to Mix. Mix to Mix, tre successi mixati da ascoltare senza interruzioni. Mix to Mix, tre successi appunto senza interruzione, tu mixati dal nostro Max B. In apertura Esibisa con Sunshine Day, poi sentiremo Someday di Sugar Ray e ancora Looking for a New Love per Johnny Watley. Company, Radio Company Mix to Mix. Sunshiny day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. sunshiny day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Mix to mix, tre successi mixati da ascoltare senza interruzione. Someday, when my life has passed me by, I'll lay around and wonder why you were always there for me. One way, in the eyes of a passerby, look around for another try and fade away. Just close your eyes and I'll take you there. This place is warm without a care. We'll take a swim in the deepest sea. I go to leave and you reach for me. Some say come our way. No matter what they try to say, you were always there for me. Some way, when the sun begins to shine, I hear a song from another time and fade away. Get over you, a new Capito che oggi c'hai poca voglia, eh? Vieni qua, vieni vicino, no, a me. Ti sto dando un po' di spazio. Lamentati, eh. Mix to mix, grazie a Max Mi B. faccio da parte, sì, ma, grazie ma a Max B. Non voglio che tu ti faccia da parte, devi stare vicino a me. Allora, si inizia con Sunshine Day. Sugar Ray e Someday. E poi Jody Watley con Looking for a New Love. Il Mix to Mix torna ovviamente domani, sempre alla stessa ora qui su Radio Company. Grazie naturalmente a Max B, torna pure lui domani sempre a quest'ora con tre canzoni tu mixate. Noi invece tra poco abbiamo Company, Compilation. Company, Radio Company, Mix to Mix. 5, 4, 3, 2, 1. EasyJet il 2011 inizia ora. Prenota entro il 10 novembre e avrai il 30% di sconto su tutti i voli dal 1 gennaio al 26 marzo 2011. Vola subito su easyjet.com. Camion Supermarket è in edicola. Trova il tuo nuovo mezzo da lavoro. Più di 5.000 occasioni ti aspettano ogni mese. Camion Supermarket. Corri in edicola. Dall'8 novembre al 31 gennaio gioca d'anticipo con Peugeot. Richiedi il check-up invernale, cambio filtro e olio più 10 controlli a soli 79 euro. Puoi vincere ogni mese uno scooter Geopolis 300 e partecipare all'estrazione finale di uno scooter Geopolis 400. Operazione valida sui veicoli Peugeot a esclusione di Peugeot Boxer, nei centri di riparazione e officine autorizzate aderenti. Estrazione entro il 28/2/2011, montepremi 14.808 euro, IVA escluta. Regolamento su www.checkupandwinpeugeot.it. È uscita Hot Parade Winter! Hot Parade Winter, 36 brani mixati da Alex Gaudino. Hot Parade Winter, in tutti i negozi di dischi su doppio CD. Finalmente è online paginedellanotte.it, il primo sito dedicato a chi lavora nel mondo dei locali e del divertimento. Sei un DJ e vuoi farti conoscere? Cerchi un lavoro nel mondo dei locali e non sai come fare? paginedellanotte.it. Animatori, DJ, baristi, camerieri, live band e molto altro ancora. paginedellanotte.it. paginedellanotte.it. Cosa aspettate? Il vostro successo ora è in un click. Vuoi 10.000 euro alla volta? Basta aspettare qualcosa dal cielo! Aiutiamoci ad uscire dalla crisi! Lavoriamo assieme con lo stesso obiettivo! Sino a 10.000 euro per te da Costruzioni Valdan! Segnalando a chi conosci i nostri immobili presenti nel sito www.costruzionivaldan.it! Costruzioni Valdan ti dà dai 2.500 ai 10.000 euro per ogni segnalazione che diventa vendita! Mettiti in gioco con Costruzioni Valdan! www.costruzionivaldan.it! È arrivata la consegna. Ciao. Il lavoro è più leggero quando hai un van su cui puntare. Nuovo Mercedes-Benz Vito. L'affidabilità di cui vantarsi. Carraro concessionaria Mercedes-Benz veicoli commerciali. Infoline 04 22 52 11. Cerchi una cucina di qualità ad un costo imbattibile? Corri da Arredo Group, primo e unico outlet del mobile nel Veneto. Arredo Group offre in esclusiva una vasta selezione di cucine delle migliori marche provenienti da fiere e set fotografici, proponendone a prezzi senza precedenti. Servizio di progettazione e modifica delle cucine garantito. Visita arredogroup.it e scopri gli ultimi arredi. Arredo Group è a Vulcano Vicentino, Montechio Maggiore, Tiene e Schio. Aperto anche la domenica pomeriggio. Partecipa al nuovo gioco a premi dei Casinò Parque Perla Vinci per un anno. Dall'8 al 30 novembre, dal lunedì al venerdì, accumula in una giornata di gioco almeno 100 punti. Il premio più alto è di 6.000 euro, ovvero 500 euro al mese per un anno intero. Casinò Parque Perla, Nova Gorizia, Slovenia. www.hit.si. Alla Fiera di Padova, dal 12 al 15 novembre, Arte Padova. Mostra mercato d'arte contemporanea. De Chirico, Burri, Morandi, Fontana, Cristo, Schifano, Sironi, Campigli, Warhol, Boy. Un'importante occasione per investire nell'arte. Arte Padova, 12-15 novembre, Padova Fiere. www.artepadova.org. La fantasia di Tom. Lo stile di Tom. L'eleganza di Tom. Scopri i mille volti della nuova moda Tom. L'universo fashion in cui si rispecchiano tutti i tuoi desideri. Tanti modi di essere e di apparire. Pronti a stupirti ora più che mai. Tom Tommasini. Arredo casa, sport e tutta la moda donna, uomo, giovane, bambino. Tom Tommasini, il tuo stile libero. Company compilation di questo lunedì 8 novembre. Scusa, no, un secondo, aspetta. Chiudi la porta. Grazie. Chiudi la porta? Proviamo un pochino così. Aspetta che ti sistemo anche questo. Perché qua. Perché chiudere la porta con un calcio è un toccasana. Bello, sì. Tanto, bentornati. Tante cose sono toccasana per te. Bentornati insieme a Stefano Ferrari. C'è Loredana Forleo qui insieme a me. Non so ancora per quanto. E adesso invece Company Compilation con 5 canzoni che ascolterete. Senti, una dopo l'altra senza interruzione. Fai qualcosa. Esatto. Fai qualcosa. Fai qualcosa, fammi segno. Questo è il nostro motto. Vai. Alessandra Moroso. Poi Robbie Williams, Gary Barlow. E ancora Biagio Antonacci. Trevi McCoy con Bruno Mars. E Michael Bublé che dedico a Stefano Ferrari. Company Compilation. Guardami bene negli occhi, da troppo tempo sfuggi da me, sembra lontani, quasi anni luce, quei momenti con te. Quando mi dicevi sei bellissima, mi facevi vivere una favola. Quando mi sentivo indispensabile, di una gioia immensa fino a piangere. Mentre adesso è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo. Of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance.